Gringo. Bambolino. Vabbè Billy, su che andiamo. Uè Billy, su che andiamo. Billy, su che andiamo. Attenzione, canale 10, c'è qualcuno?